Eccoci a Visionari su Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza dal 1977 libera da padroni e pubblicità. Potete contribuire alla sua vita, ad esempio sottoscrivendo sul numero di conto corrente postale 61804001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185 Roma. Dicevo, il cinema. Per saperne di più sulla trasmissione e sulla scaletta di oggi basta consultare il sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Potete ascoltarci in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio. Sull'home page c'è Ascolta la diretta. E ritroviamo Alessandro Agostinelli, direttore della 10ª edizione del Festival del Viaggio a Firenze dal 9 al 13 giugno. Alessandro, ben ritrovato. Ciao, ciao, buona giornata a tutti voi. Se non sbaglio era la prima edizione quando venni al festival. Sì, è passato era un po' di tempo. 2006. Senti, sì. Alessandro, allora raccontiamo brevemente questa esperienza del Festival del Viaggio e poi quello che ci interessa per la puntata di oggi, ossia la parte cinematografica. Certo. Allora, niente, il festival è la 10ª edizione ormai. Da un po' di anni abbiamo consolidato l'appuntamento in due città italiane, come base Firenze e poi Palermo. Quindi siamo a Firenze dal 9 al 13 giugno e a Palermo dal 13 al 19 giugno. Sì. Il Festival del Viaggio come filosofia, come anche tu sai, insomma, non si occupa soltanto di grandi viaggiatori o di turisti o di tutto quello che muove, diciamo, anche con la nuova moda ormai decennale del traffico aereo low cost, tutta quella massa di gente che si muove per vacanza, ma anche, come dire, i viaggi di necessità, chi si muove per altri motivi, diciamo, ecco. Sì, e sì. Questo è un tema abbastanza importante in questo periodo. Ok, e per quanto riguarda i lungometraggi o i documentari, insomma, o i contributi filmati, ci sono, se ricordo bene, tre offerte che per quanto riguarda il festival proporrete quest'anno. Sì, diciamo che abbiamo come cosa abbastanza importante tre prime nazionali e una prima europea. Partiamo da quella forse più importante, e cioè il 10 giugno abbiamo la prima nazionale del film di Christian Levering, questo regista danese, che si intitola The Salvation. Lo presentiamo al Festival del Viaggio in anteprima il 10 giugno e poi dall'11 giugno sarà in tutte le sale italiane. È una specie di road movie del Far West, diciamo. È la storia di alcuni, chiamiamoli migranti, non mi viene miglior parola, che dalla vecchia Europa, ormai più di 150 anni fa, si spostano negli Stati Uniti e quindi, come dire, entrano a far parte di tutta la saga del Go West, no? Sì. Quello che poi ha reso indiscusso, insomma, il successo di molte pellicole americane. E questa ci sarà, i due attori principali sono Eva Green, la protagonista femminile, e Matt Mikkelsen, il protagonista maschile. Bene. E questo è il primo. Sì, questo è il primo, diciamo, è quello abbastanza importante in collaborazione con l'Academy 2 e quelli della compagnia. E poi abbiamo invece dallo scorso anno attivato un rapporto con la Russia e quest'anno presentiamo quattro documentari in prima europea, questo è il 12 giugno, sempre a Firenze, e sarà presente, diciamo, per presentare tutta questa roba, il direttore artistico di questo festival russo che si chiama Tour Film Fest. E sono quattro documentari di quattro giovani registi della Confederazione Russa. Sono di solito questo festival si occupa di presentare documentari in Russia che riguardano gli stati, le repubbliche della confederazione più periferiche, che non si conoscono, e quindi cercano di raccontare, diciamo, storie di vita vissuta, di mestieri, di questioni che riguardano appunto la periferia della Confederazione Russa. È una scommessa anche per il pubblico, perché in una sola serata allo Spazio Alfieri a Firenze presentiamo questi quattro documentari, però credo che sia una bella scorpacciata per una cinematografia che ultimamente in Italia è poco presente. Sì. E poi abbiamo altre cose interessanti. Dunque, io direi molto importanti sono due documentari. Sì. Uno si chiama Low Cost Clocks, ha partecipato anche a due festival internazionali, è tutto girato in inglese, però è fatto da un regista italiano molto bravo, si chiama Giacomo Agnetti lui. Sì, sì, abbiamo avuto ospite. Ne hai parlato? Sì, sì, l'abbiamo avuto ospite, sì, sì. Che infatti, questo film sull'immaginario dei viaggiatori e turisti mi sembra veramente tagliato per il Festival del Viaggio. Sì. Non mi dilungo, quindi se ne avete già parlato, però insomma, è veramente un prodotto che mi è piaciuto molto. E l'altro è una novità, sono due giovani registe fiorentine, sono andate in Palestina e hanno fatto questo documentario che si chiama Pop Palestine, un documentario su piatti, chef, pasticceri, insomma hanno attraversato tutto il territorio della Palestina e hanno fatto, che di solito diciamo noi nell'immaginario, ma anche non solo, cioè nelle notizie che arrivano attraverso il web, la stampa, sappiamo e ne parliamo sempre per cose spiacevoli, una volta tanto diciamo abbiamo un prodotto da quella terra che un prodotto documentario che ci parla proprio della vita, della cultura materiale di quella popolazione, quindi la cucina palestinese, ecco. Beh. Questo ci sembrava abbastanza interessante come argomento. Sì. E poi ci sono altri tre documentari che sono stati fatti insieme al Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze e sono dedicati a tre città diverse, una è su quattro città russe, gli stili architettonici, una è su un quartiere della Havana che si chiama Lamar e l'altro è di un bravo regista romano che abita a Urbino e ha fatto un lavoro egregio di sociologia urbana su Urbino 2, questo insediamento nuovo che era stato fatto per gli studenti, poi abbandonato con dispendio di soldi pubblici e in realtà alla fine ci si sono inseriti gli immigrati e quindi con tutti i problemi di rapporti tra il borgo medievale da cartolina di Urbino, la sua università e questa appendice diciamo un po' più periferica e anche dimenticata, ecco. Sì, sì. Bene Alessandro, allora per quanto riguarda il festival ci dai riferimenti web per la programmazione? Certamente, perché poi c'è anche a Palermo alcune cose interessanti come The Yukon Blues di Igor Dindia che presentiamo lì alla Libreria del Mare ed è veramente un prodotto fantastico sulle orme di Walter Bonatti, un bellissimo documentario di questo giovane grande viaggiatore italiano, palermitano per la precisione. Allora, festivaldelviaggio.it dal 9 al 13 giugno a Firenze e dal 13 al 19 giugno a Palermo. Alessandro, è stato un piacere come ogni volta, a questo punto un abbraccio e a risentirci presto. Piacere mio, un abbraccio Federico, ciao, buona giornata. Grazie anche a te. Alessandro Agostinelli, direttore della 10ª edizione del Festival del Viaggio, la prima parte a Firenze dal 9 al 13 giugno. È con noi Dario Barone di Camera Distribuzioni Internazionali per parlarci di un ciclo di tre documentari sui problemi dell'alimentazione che saranno programmati da Sky TG24 a partire dall'8 giugno in occasione, in concomitanza con l'Expo 2015. Dario, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Sì, buongiorno, grazie Federico e un saluto agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Mi è subito interessata questa proposta di tre documentari perché si parla di sfruttamento delle risorse naturali, di sprechi e di malnutrizione, giusto? Sì, è giusto, diciamo che finalmente insomma si dà un po' di visibilità a quelli che dovevano essere insomma i grandi temi che andavano dibattuti durante durante l'Expo e che diciamo che non sono stati a mio avviso molto affrontati dai media, sui giornali e tantomeno sulle televisioni. Diciamo che si è visto molto poco questo dibattito che doveva insomma in qualche modo sottendere, no? La manifestazione. Se voi andate sul sito ufficiale di Expo, proprio sulla prima pagina, vedendo che cos'è Expo, si dice che per 6 mesi diciamo Milano diventa la vetrina in cui i paesi mostrano il meglio delle tecnologie per dare una risposta a un'esigenza vitale, cioè riuscire a garantire il cibo sano, sicuro, sufficiente per tutti i popoli nel rispetto del pianeta e dei suoi equilibri. Ora, di tutto questo non mi pare ci sia molta traccia, insomma, non so voi, ma io seguo abbastanza, come dire, sì. Gli eventi mediatici, i giornali, ma insomma non vedo grande dibattito. Quindi ecco, comunque devo dire con grande soddisfazione e orgoglio sono felice che Scadigio 24 abbia insomma accettato di dedicare tre prime serate su questi argomenti. Dunque, innanzitutto va detto che si parla di Scadigio 24 in chiaro sul digitale terrestre, cioè il canale 27, quindi non la pay TV, e questo è ancora meglio, quindi certo. Vuol dire che lo possono vedere tutti, insomma non c'è bisogno di avere un abbonamento. Gli appuntamenti sono appunto lunedì 8 giugno, lunedì 15 giugno e giovedì 22 giugno alle 21:10. Questi sono i dati che io spero che siano confermati, ma penso di sì. Allora, parliamo di questi tre titoli, ecco. Venendo appunto nel merito, allora il primo titolo che viene programmato lunedì 8 giugno si chiama titolo in italiano, diciamo, USA lotta all'obesità, è una produzione francese e come dire, focalizza una delle grandissime contraddizioni del nostro tempo, cioè dice vabbè, in America un americano su 5 è obeso e ogni anno gli Stati Uniti muoiono 400.000 persone per malattie legate all'obesità, ma dice nello stesso momento, voglio dire, ci sono, no, milioni di persone che patiscono la fame. Quindi insomma, partendo diciamo da questo presupposto, io direi che non sono documentari, queste sono un po' più delle inchieste giornalistiche, nel rispetto dei linguaggi cerchiamo di essere un po' più precisi, quindi se io ci tengo, io distribuisco anche documentari, certo, però certo. Immagino il vostro pubblico, i vostri ascoltatori siano attenti a queste cose, quindi chiamiamoli con il loro nome, sono dei reportage. Okay. E in questo caso appunto è una produzione francese, TAC Press, che è andata in onda su varie televisioni insomma in tutto il mondo e in Francia su M6, fa un giro negli Stati Uniti e va in particolare a vedere insomma un campo estivo che si chiama Camp Shane nello stato di New York, dove giovani, adolescenti, ragazzini pagano per andare a fare praticamente una sorta diciamo di rieducazione, che è anche qualcosa di un po' di paramilitare, per imparare a nutrirsi decentemente, a fare ginnastica, a fare movimento, a fare diciamo a condurre quella vita sana, no, che dovrebbe insomma come dire appartenere insomma al vissuto di tutti. Ecco, lì a quanto pare c'è un gap culturale enorme e questo lo sappiamo bene perché la Michelle Obama insomma ha lanciato subito dopo l'elezione del marito insomma una grandissima campagna negli Stati Uniti per insomma sensibilizzare le famiglie e soprattutto i ragazzini insomma a uno stile di vita più sano. Ecco, evidentemente lì questa battaglia insomma una battaglia che si combatte anche con questi insomma con questi metodi diciamo un po' paradossali. Quindi questo è il tema diciamo del primo reportage. Federico, se tu vuoi chiedermi qualcosa in più, io non so. No, mi sembra sì, no, è molto sei stato sintetico ma anche esaustivo, per cui vanno bene così le presentazioni. Sì. Benissimo. Allora, il secondo invece si chiama Global Waste, cioè la società degli sprechi, e questo è un grandissimo tema, cioè ovvero lo spreco alimentare, il fatto che come dire, la metà del cibo prodotto nei paesi industrializzati finisce nella spazzatura. Questo peraltro doveva essere uno dei grandi temi di Expo, insomma. diciamo che questo spreco alimentare potrebbe sfamare circa 1 miliardo di persone. Questo reportage che è stato fatto dalla società Capa, la società francese, è andato in onda su Canal Plus e su Planet. È stato realizzato in diversi paesi, in Europa, in Costa Rica, in Pakistan, negli Stati Uniti e in Giappone, e ha di positivo che, oltre a mettere, diciamo, in luce l'enorme contraddizione, fa vedere però, insomma, come dire, delle insomma, in qualche modo anche delle soluzioni, cioè dei modelli virtuosi. Sì, sì. Questo è sempre bene, diciamo, in queste forme, diciamo, di giornalismo televisivo. Sì, sì. Tra tutte sicuramente da segnalare quella del Giappone, che è un paese che importa più del 60% del suo fabbisogno, diciamo, alimentare, dove, insomma, attraverso una legge fatta, diciamo, ad hoc, si ricicla tutto il cibo che viene, che va in scadenza, che quindi dovrebbe essere buttato, viene in realtà riciclato, viene fatto il compost, diciamo, per fare dell'agricoltura sana, diciamo, biologica, o addirittura dei mangimi ecologici per gli animali, che costano meno, paradossalmente, di quelli, diciamo, di quelli chimici, chiamiamoli, sì, così. Sì, qui sono ovviamente di migliore qualità. Poi va bene, nell'inchiesta si fanno vedere altre cose, per esempio a New York c'è una società senza scopo di lucro che gira per i grandi ristoranti di lusso e raccoglie tutto il cibo, diciamo, non utilizzato. Attenzione, non utilizzato vuol dire, non stiamo parlando di rifiuti, stiamo parlando di prodotti che magari, non essendo proprio assolutamente perfetti come viene, sì, richiesto, insomma, in un ristorante di altissimo livello, vengono poi scartati, ma sono ancora perfettamente, diciamo, buoni, utilizzabili. Sì, sì. E questa società li raccoglie e attraverso questa raccolta, diciamo, alimenta poi una mensa dei poveri, che direi una mensa di lusso, insomma, perché poi si mangiano ovviamente cose ottime, insomma. Sì, sì, sì. E quindi questo qui è il secondo reportage che andrà in onda il 15 giugno. L'ultimo invece parla di del legame tra sfruttamento del lavoro minorile e un alimento a noi molto caro, cioè il cioccolato. Il cioccolato viene prodotto per il 60% in Ghana e in Costa d'Avorio. In questi due paesi, per, diciamo, la coltivazione e la raccolta, insomma, dei semi del cioccolato, del cacao, vengono utilizzati molto spesso bambini che lavorano nelle piantagioni in condizioni ovviamente miserabili e spesso quasi di semischiavitù. Questa è Cioccolato, una amara verità, il titolo originale era proprio Chocolate the Bitter Truth, e è stato realizzato da Paul Kenyon, che è un giornalista di punta della testata Panorama di BBC, viene andato in onda su BBC One. Paul Kenyon è andato, diciamo, in Ghana, in Costa d'Avorio, e sotto copertura, perché ovviamente, insomma, è un po' complicato fare queste inchieste giornalistiche, insomma, presentandosi, come dire, nei panni del giornalista, sotto copertura è andato a vedere se, insomma, quali erano le condizioni di vita nelle piantagioni di cacao. Ecco, ho messo di dire una cosa importante, che nel 2001, se non ricordo male, era stato firmato un protocollo internazionale che prevedeva, appunto, la produzione del cacao senza l'utilizzo di lavoro minorile e tantomeno di lavoro, insomma, semischiavistico. Tutti hanno, ovviamente, i grandi produttori di cacao hanno aderito a questo protocollo, ma perché non va in questi paesi e verifica che questo protocollo non è assolutamente rispettato, perché ancora oggi, dietro questo ottimo alimento che credo che piaccia veramente un po' a tutti, in realtà c'è, insomma, il sudore e il lavoro dei bambini che vengono sfruttati in modo indescrivibile, e addirittura lui dimostra, insomma, che ci sono anche delle situazioni di traffico di bambini tra un paese e l'altro, cioè ci sono proprio degli schiavisti che insomma, in qualche modo prendono i bambini dai paesi limitrofi e li portano a lavorare in Ghana, in Costa d'Avorio. Dario... questo è il tema del terzo titolo. Dario, in chiusura allora ricordiamo le tre date, che sono tre lunedì in successione. No, sono due lunedì e un giovedì, scusami. Sì. Sì, lunedì 8 giugno, lunedì 15 giugno e giovedì 22 giugno. Alle 21:10 Sky TG24 in chiaro, digitale terrestre, canale 27. Benissimo. E anche un sito internet di riferimento? Aia. se c'è sempre, che ci sia preparato, non lo so. Vabbè, non però so si può Sky... cercare, insomma. Sì, esatto. Okay, mi dispiace su questo. Allora io ti ringrazio, molto molto interessante, come mi aspettavo d'altronde, quindi ci sentiamo magari prossimamente per le novità che proporrete. Spero di sì. Sì, ci sono poi altri, ecco, questi saranno documentari che andranno in onda sempre a giugno, però insomma, non solo sui temi dell'Expo, poi insomma se ci sarà opportunità, con moltissimo piacere. Bene, un abbraccio Dario, a presto. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Dario Barone di Camera Distribuzioni Internazionali sul ciclo di tre documentari d'inchiesta sui problemi dell'alimentazione in concomitanza con Expo 2015 su Sky TG24 in chiaro dal lunedì 8 giugno. Gianluca Maria Tavarelli, regista del film Una storia sbagliata, in uscita in sala oggi giovedì 4 giugno. Gianluca, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità. Allora, per chi ci ascolta, descriviamo brevemente la trama del film, Gianluca. Il film, diciamo, racconta una storia d'amore e cerca di coniugare questa storia d'amore, quindi insomma una storia quotidiana, una vicenda che tutti noi potremmo vivere, cerca di coniugarla invece con la storia con la S maiuscola, con una storia invece più civile, più come dire, che anche quella leggiamo, ma che leggiamo tutti i giorni sui giornali. In questo perché il marito è un soldato, il marito di Stefania, la protagonista, è un soldato di stazza in Iraq, e quindi diciamo la loro vicenda amorosa purtroppo deve fare i conti con la guerra in Iraq, ed è raccontata però questa vicenda attraverso gli occhi di chi resta, cioè attraverso gli occhi di Stefania, attraverso gli occhi di una donna, e la storia del film diventa la storia di un viaggio. Stefania decide di partire per affrontare un dolore, per affrontare in un certo senso anche la crisi del suo matrimonio, e il film diventa la storia di un viaggio perché lei decide di partire, unirsi ad una missione umanitaria, a recarsi in Iraq nel 2006, quando ancora c'è la guerra. E quindi il film è questo, ecco, un viaggio attraverso l'Iraq durante la guerra, ma anche un viaggio dentro se stessi, dentro il suo amore per Roberto, dentro... Allora, per me che l'ho visto, Gianluca, mi sembrano due gli elementi portanti del tuo lavoro. Uno è gli effetti devastanti della guerra, sia in chi la fa che in chi la subisce, e secondo la filosofia della cosiddetta missione di pace, sintetizzata in una frase del protagonista, che dice: e noi gli portiamo i giocattoli però poi li bombardiamo. Certo, intanto perché diciamo un dato fondamentale è che le guerre di oggi, le guerre moderne, non sono come le guerre di un tempo per chi le fa, nel senso che se pensiamo alla Seconda Guerra Mondiale, il mondo era un unico grande fronte, quindi i soldati che stavano al fronte, ma i parenti che stavano a casa, vivevano grosso modo situazioni molto simili, perché c'erano i bombardamenti, c'erano i razionamenti, non c'era da mangiare, la morte era ovunque. Per cui voglio dire, in qualche modo chi era sul fronte, quando tornava a casa, incontrava persone che in qualche modo avevano vissuto le tue stesse cose. Oggi è completamente diverso, nel senso che oggi ci sono fronti aperti nel mondo di guerra vera, di guerra reale, con soldati che muoiono e saltano per aria, mentre nello stesso momento noi a casa siamo in piscina, al mare, al cinema, a bere un drink nella piazzetta sotto casa, e queste due realtà diventano inconciliabili, cioè chi è là e torna non riesce a spiegare quello che ha vissuto, quello che ha visto, come noi che siamo qui e viviamo un quotidiano normale non possiamo immaginare che ci sia una guerra vera a tutti gli effetti, quindi questi due universi diventano inconciliabili e questo crea poi tutti i problemi psicologici che i soldati che tornano si devono affrontare, ecco, devono affrontare soprattutto perché sono soli e non riescono a comunicare nulla di quello che si portano dentro, mentre invece un tempo per l'appunto era diverso, ritornava dalla guerra e incontrava persone che a grandi linee la guerra l'avevano conosciuta come lui. Mm-hmm. Quindi questo è un po' un tema del film. Sì. Il tema, beh sì, senz'altro, voglio dire, l'Iraq e l'Afghanistan non sono state missioni di pace, ma sono stati fronti di guerra aperti in maniera totale, ecco, poi magari c'è chi può. Gli italiani in genere hanno sempre avuto magari poi un ruolo più, come dire, di rapporto con la popolazione, proprio anche perché noi magari storicamente siamo popolazioni più aperte, siamo popolazioni più aperte al dialogo, quindi magari noi eravamo più, diciamo, quelli che avevano a che fare con la gente e meno magari sul fronte, però quelle sono state guerre vere e proprie che hanno fatto molti morti, ecco, solo che magari poi a noi ci arrivano come numeri e insomma, ci interessano poi relativamente proprio perché si innestano nel nostro quotidiano lontanissimo da quello che succede là. Sì, sì, sì. Oh, Gianluca, da oggi nelle sale in quante copie? Il film uscirà alla fine in una cinquantina di copie, quindi uscirà in una cinquantina di cinema e parallelamente però si potrà anche vedere su My Movies, scaricandolo, mi sembra €3,90, si potrà vedere nei posti dove non arriva il film, dove non ci sono le sale che lo distribuiscono, si potrà vedere a casa propria. Tra l'altro hai partecipato a quell'interessante iniziativa che si chiama Schermi Pirata e con gli ex sì. occupanti ed ragazzi e ragazze sì, del bene, Cinema America per una proiezione meravigliosa che fanno i ragazzi del Cinema America. Beh, intanto ora fanno una rassegna che durerà tutto giugno e tutto luglio a Trastevere, hanno montato uno schermo con le sedie, tutte le sere proiettano un film diverso gratuitamente per la popolazione, tutto autogestito e tutto autofinanziato, quindi sì. un'iniziativa meravigliosa per tutti quelli che passano da Piazza San Cosimato la sera alle 9, è un'atmosfera stupenda. E con noi abbiamo fatto questa proiezione bellissima, il Giardino degli Aranci, con più di 3.000 persone, anche questa gratuita, solo attraverso la promozione su Facebook, c'era una marea di gente che è venuta a vedere il film, ma credo poi soprattutto è venuta anche per stare insieme, per vivere insieme, come dire, un evento. Sì, sì, sì. E quindi, insomma, credo che in questo senso si faccia politica. Si fa politica quando fai uscire le persone di casa, quando gli fai vivere delle esperienze, quando gli proponi delle cose da fare. Ecco, in questo senso i ragazzi del Cinema America fanno realmente politica. Mm-hmm. Oh Gianluca, io ti ringrazio, è stato un piacere. Grazie a voi. Speriamo a presto. Grazie, speriamo a presto allora. Ciao Gianluca. Arrivederci, ciao. Gianluca Maria Tavarelli, regista del film Una storia sbagliata, in uscita in sala oggi giovedì 4 giugno. Ritroviamo Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per parlare del documentario Cinema Comunisto con la K, in uscita in sala oggi giovedì 4 giugno. Paolo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno, grazie a voi per averci di nuovo contattati per la nostra nuova uscita. Allora, raccontacelo un po', io lo vedrò stasera, quindi ancora per me è una sorpresa. Sì, questo è, possiamo dire che è un recupero, perché questo film uscì al Festival di Trieste nel 2011 e vinse il premio come miglior documentario e dopodiché, per una serie di vicende, dopo aver girato molti festival nel mondo, compreso il Tribeca con grande accoglienza, insomma, essere uscito in Francia, poi però è rimasto un po' bloccato per vari paesi, quindi noi poi abbiamo avuto l'opportunità di recuperarlo. E crediamo sia un'ottima cosa, perché il film non è datato, in quanto racconta la storia del cinema in Jugoslavia, dell'industria cinematografica in Jugoslavia, quindi praticamente il periodo di Tito, perché come sappiamo dopo Tito, dopo pochi anni, la Jugoslavia collassò. e racconta anche con molta ironia, oltre che con dovizia di particolari, documentazione anche cinematografica, cosa succedeva e come quell'industria sostenne questo paese sostanzialmente, anche dal punto di vista proprio economico della valuta, perché molte produzioni hollywoodiane andarono in Jugoslavia a girare, ma anche molte produzioni italiane. E quindi da questo punto di vista è molto interessante, ripeto, poi il ritmo, anche l'ironia con cui la giovane regista Mila Turjevic racconta questo periodo è anche particolarmente interessante per lo spettatore che magari non amerebbe un semplice film d'archivio, e quindi è assolutamente godibile anche il film, oltre che dal punto di vista informativo molto molto interessante. Oh, com'era il cinema sotto Tito? Era uno strumento di propaganda o era anche molto altro? No, assolutamente, era uno strumento proprio economico, infatti lo spiegano nel documentario, cioè attraverso l'arrivo di produzioni ricche come erano quelle hollywoodiane, ma anche relativamente ricche come erano all'epoca quelle italiane, si importava valuta e questo faceva sostenere uno Stato che però era organizzato appunto da un punto di vista economico sul sistema socialista e quindi aveva delle fragilità confrontandosi con un sistema capitalista, però in questo modo si riusciva a sostenere, avendo fatto lo strappo nei confronti di Stalin, Tito aveva una certa autonomia e quindi aveva una credibilità e un'apertura nei confronti di tanti paesi, anche del blocco occidentale, che consentiva di fornire anche servizi cinematografici. Infatti c'era una cinecittà alternativa a Belgrado, sostanzialmente negli Avala Studios, che purtroppo pochi mesi fa sono stati definitivamente venduti ai privati, si realizzavano film con questo scopo. Poi naturalmente la parte propagandistica, se vogliamo così chiamarla, era data dal fatto che la produzione era quella nazionale jugoslava, era molto incentrata sulla storia partigiana, sugli episodi di guerra. Addirittura c'è il film su Pieschia in cui Tito sceglie Richard Burton per interpretare se stesso. E questo è raccontato nel film e da questo punto di vista è molto molto interessante e simpatico anche per alcuni aspetti. Naturalmente il film racconta anche gli elementi illiberali di un paese che comunque è guidato da una persona che proprio istituzionalmente ha la possibilità di incidere direttamente con la propria parola sui destini anche quotidiani delle singole persone. Quindi è un film che non è affatto agiografico, che racconta anche molte cose positive di quel periodo, ma con l'onestà anche di raccontare gli elementi negativi, certo, di quella che comunque era una situazione non libera, non di libertà di espressione come la possiamo intendere noi. Quindi comunque il cinema era un settore florido e anche una voce importante per l'economia. Assolutamente sì, assolutamente sì. E questo è molto interessante perché potremmo trarne ispirazione. In fondo la Jugoslavia era una grande film commission, potremmo dire oggi. Quindi secondo me questa è una ispirazione giusta per lo sviluppo economico che noi possiamo pensare di dare per esempio al nostro paese anche attraverso l'industria cinematografica. Sì, sì, sì. Oh, Paolo, quali sono le modalità di uscita che avete pensato? Ma dunque, appunto, essendo un documentario, essendo un recupero, naturalmente non abbiamo preteso che le sale, anche perché tra l'altro questo giugno è pieno di uscite, non abbiamo naturalmente preteso che le sale facessero necessariamente una tenitura settimanale, eccetera. Alcune lo faranno, come per esempio da oggi il Postmodernissimo di Perugia e il Beltrade di Milano, ma altre sale faranno un'uscita di uno o due giorni e quindi nel corso delle settimane, dei giorni di questo mese lo vedremo uscire anche a Pistoia, a Firenze, ad Ancona, a Trieste, a Torino, a Cagliari, a Napoli, e quindi insomma da questo punto di vista più o meno girerà un po' il paese. E poi naturalmente, come al solito, come tutti anche gli altri film, a luglio-agosto nelle arene estive sicuramente da qualche parte comparirà, e quindi cercatelo perché lo troverete senz'altro nel raggio di pochi chilometri della vostra abitazione. Senti, fa riferimento chiaramente il vostro sito internet del Cineclub? Certo, assolutamente, il nostro sito internet, la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook del film, che è quella più aggiornata naturalmente, perché le dinamiche social network sono così oggi, e quindi la pagina più aggiornata è sempre quella di Facebook piuttosto che quella del sito, ma in ogni caso qualunque informazione verrà richiesta agli indirizzi email, a quella richiesta risponderemo immediatamente, per cui insomma non ci sono problemi ad acquisire informazioni sia sulla programmazione del film che su qualsiasi altra notizia dovesse essere necessaria per il richiedente. Paolo, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie, grazie a voi, buon lavoro, alla prossima. Ciao. Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione sul film, sul documentario Cinema Comunisto, in uscita in sala oggi giovedì 4 giugno. Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema come ogni giovedì dalle 14 alle 15. Eccoci con Paolo Ruffini, responsabile della Casa dei Teatri, per parlare di Piccola Scena Digitale, festival di cortometraggi che sarà alla Casa del Cinema qui a Roma il prossimo 9 giugno. E per parlarne lo facciamo proprio con Paolo. Paolo, ci sei? Sì, buonasera, buonasera a tutti. Ben trovato a Visionari su Radio Onda Rossa, Paolo. Grazie, grazie a voi. Allora, mi interessava molto questo piccolo festival perché intanto è un incrocio di arti e poi documenta in maniera filmata il teatro, la danza, la performance, giusto? Sì, dunque noi abbiamo tentato di fare un'operazione che altrove in passato è stata fatta con, come dire, con eccellenza. Stiamo parlando del Riccione di TV e del coreografo elettronico a Napoli, in un caso lo specifico del rapporto appunto scena teatrale, ma non solo, e video, e dall'altro il lavoro coreografico, la danza contemporanea e il video. Quelle sono le due grandi madri, se così possiamo chiamarle. Del resto nel tempo i festival di teatro, comunque i festival di sperimentazione, hanno poi comunque acquisito questa esperienza e un po' ridistribuito sui festival tutti la presenza del videoteatro, videodanza, videoperformance. Di fatto non quasi come se non esistesse più un luogo dove poter andare a vedere, ma ne esistono moltissimi. Ci sembrava opportuno che su Roma cominciasse, quindi è un primo passo, un'esperienza che guardasse da quello stesso punto di vista, in quella prospettiva lì, e quindi è nato tutto questo da un'occasione, ormai 2 anni fa, un progetto proprio a Casa dei Teatri di una mostra dedicata a Beckett, o meglio alle prigionie invisibili, che è un concetto, una metafora strettamente beckettiano. Sì. Da lì una serie di progetti che sono nati anche in altri luoghi, Casa della Memoria, Cinema Aquila, Sala Santa Rita, che sono i nostri spazi espositivi, compresa evidentemente Casa dei Teatri stessa, che è quella che è dentro Villa Panfini, Lino Corsini, ancora stiamo parlando di quella. E tutto questo progetto è andato avanti per 2 anni con incontri, pubblicazioni, performance, interviste, eccetera, e abbiamo concluso questo lungo giro di circa 2 anni con il bando di questo festival di cortometraggi, ed oggi siamo alla fine, siamo al festival vero e proprio, siamo a Casa del Cinema che ci ospita alle 8:30 di sera, con la visione, con una giuria, con la possibilità di vederli tutti di seguito. Sono tra l'altro molto brevi, perché abbiamo sempre dato un termine, che sono quelli di 15 minuti, alcuni quindi l'hanno rispettato rigorosamente, altri ne hanno fatto di meno, ovviamente tutto nella libertà artistica di chi hanno presentato i lavori. Sì. Ecco Paolo, 2 curiosità, la prima è quante opere verranno presentate, la seconda quali sono stati i criteri di scelta al di là dei limiti temporali dei 15 minuti. Certo, allora le opere sono 13, quelle che sono arrivate in finale, e su quelle, come dire, la giuria sta lavorando per nominare il vincitore o eventuali altri premi. I criteri sono una griglia che da un punto di vista, come dire, strettamente istituzionale ci siamo dati: la corrispondenza al tema, la qualità artistica, evidentemente il livello di sperimentazione. Sì. Sono diverse, diciamo, le voci che ci siamo dati all'interno per poter presentare alla giuria un pacchetto, diciamo, di titoli e di nomi che in qualche modo fossero corrispondenti e rispondenti alle tematiche del progetto. Poi è chiaro che nella seconda fase scatta il discorso di una qualità, di uno specifico che è cinematografico, ma sì, non solo, di immaginari e di visionarietà, che sulla quale la giuria sta lavorando e avrà il suo peso. D'altra parte tutta la giuria è composta di persone, se posso le vado a dire, sono, come dire, esperti di settore, perché c'è Giorgio Gosetti che è un giornalista, un critico e un nostro amico, sì, tra l'altro, ed è il direttore della Casa del Cinema, sì. Duccio Camerini, che è un drammaturgo, un attore, un regista, ma è anche regista di cinema, sì. Donatella Orecchia, che è storica del teatro all'Università di Tor Vergata, Yosuke Taki, che è un giapponese, un artista, un regista teatrale, ma è anche quello che all'inizio ha ideato e ha presentato il progetto su Beckett a Casa dei Teatri. E poi ci sono io, che sono responsabile della casa, e diciamo che nel mio, come si dice, background, forse tu lo sai, vengo appunto dal giornalismo, mi sono occupato di teatro e di danza per molti anni. Sì, sì. Oh, Paolo, se non sbaglio l'ingresso è gratuito, e poi sì, volevo sapere se saranno fruibili anche in successivamente queste opere, se... Allora, noi dunque sicuramente, sì, dunque, assolutamente gratuito. D'altra parte un'istituzione non potrebbe che fare questo, per cui, come spesso succede, ed è anche il lato più bello, è successo per Memoria Corta, che diciamo che è un progetto similare che noi facciamo su Casa della Memoria, con le tematiche della memoria storica del Novecento. L'afflusso è stato molto, grazie al cielo, e quindi, come dire, il pubblico, che i curiosi, al di là dei tifosi o dei parenti o degli amici degli artisti stessi, a loro consiglio di arrivare un po' prima per prendere i posti, come si dice, benché la sala Kodak sia grande, sì, però appunto. E poi appunto è una non solo ci permette di lavorare su un territorio aperto, che è quello soprattutto dei giovani, perché molti dei video presentati, parecchi di quelli che sono in concorso, sono fatti da giovanissimi. Questo è un dato importante. Sì, sì. E poi dopo il festival la curiosità, sì, era se saranno fruibili in altri modi poi. Allora sì, noi stiamo cercando in parte stiamo realizzando la possibilità di trovare un accordo con delle televisioni, sì, che possano creare dei programmi ad hoc, okay, quindi presentando l'artista, intervistandolo, facendo un cappello iniziale e mandando i video vincitori. Lo stiamo facendo per Memoria Corta, sta per partire questo format, scusa questa parola ultra contemporanea, ma per capirci, sì, e ci piacerebbe farlo molto anche con la Piccola Scena Digitale. Bene, allora in chiusura ricordi tu tutto, i luoghi e le date? Casa del Cinema, il 9 martedì prossimo alle ore 20:30, sala Kodak, vi aspettiamo, vi ringrazio molto di questa opportunità. Paolo, un abbraccio e a presto. Buon lavoro, a presto. Ciao. Ciao. Paolo Ruffini, responsabile della Casa dei Teatri, su Piccola Scena Digitale, festival di cortometraggi alla Casa del Cinema il prossimo 9 giugno. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Come ogni anno, Andrea Romeo, direttore dell'11ª edizione di Biogra Film Festival a Bologna dal 5 al 15 giugno. Andrea, ben ritrovato. Ben ritrovati a voi. Allora, raccontaci un po' le caratteristiche intanto del Biogra Film in generale e poi di questa edizione in particolare. Ma Biogra Film, grandi biografie e racconti di vita, grandi e piccole ovviamente, 111 film per raccontare il meglio della produzione documentaria e di cinema biografico di questi ultimi 12 mesi. Sì. Partiamo domani con il film Amy, dedicato a Amy Winehouse, che poi è in seconda proiezione mondiale dopo Cannes, è un'anteprima prestigiosissima, molto attesa dal pubblico di Biografilm. Il film poi sarà distribuito in Italia a settembre, dal 15 settembre, da Good Films e Nexo. Però l'occasione appunto era troppo ghiotta per non aprire il festival con questo bellissimo, oltre che ovviamente molto triste anche, insomma si piange tanto, il talento di questo artista emerge tutto dal film di Aziz Kapadia, da cui emerge però anche appunto la tristezza per una perdita di una ragazza così, così giovane e di una vita a tratti molto, molto dolorosa. Dicevo, 111 film, un percorso internazionale nel documentario e nei grandi biopic molto, molto ricco. C'è una crescente produzione di questo tipo di film e in qualche modo Biografilm è felice anche di interpretare e di aver intercettato questa che speriamo non sia semplicemente una moda ma qualcosa di più, una voglia di contenuti, di buone storie e di bei film. Tra l'altro, Andrea, mi sembra un contributo determinante alla memoria in più campi, non trovi? Sì, la memoria è chiaramente, per un festival che si occupa di biografie, un tema fondamentale. Lo esploriamo con un grandissimo regista che io amo moltissimo, Patricio Guzman, a cui oltre al nuovo film Il bottone di Madreperla abbiamo dedicato un piccolo omaggio che ci farà anche rivedere il suo bellissimo Nostalgia della Luz, film che appunto Guzman dedica alla memoria del Cile, del suo paese, e ha una riflessione anche più in generale su quello che è ricordare, quello che è esplorare il passato. Ecco, a proposito di memoria, ci sono in questa ampia scelta di 111 pellicole delle aree tematiche più ricorrenti? Ma abbiamo voluto, da quest'anno la musica ha sempre avuto una grande importanza a Biografilm, da quest'anno nasce Biografilm Music che raccoglie 10 grandi titoli. Parlavamo appunto del film su Amy Winehouse, ma ce ne sono molti anche italiani, due film italiani, unità di produzione musicale e Numero Zero, che verranno entrambi presentati il prossimo weekend e che sono titoli molto, molto attesi. Senti, per quanto riguarda gli ospiti, hai fatto alcuni riferimenti, ce ne sono altri? Guarda, gli ospiti sono in questa edizione 229, quindi non ve li racconto tutti. Vi dico che ci sta per raggiungere Simon Chin, amatissimo produttore di Sugarman, e che a Biografilm ha avuto la sua anteprima 2 anni fa, e con lui vedremo anche il suo nuovo film, il nuovo film che ha prodotto, che si chiama Garnet Gold e che è in concorso, quindi non aggiungo niente. Ma poi nell'arco di questi 11 giorni di festival sarà con noi anche il regista danese Michael Madsen, autore del meraviglioso Into Eternity, un film che da solo potrebbe bastare a spiegare perché l'energia nucleare ancora non l'abbiamo compresa e non la sappiamo gestire. Di fatto racconta l'unico sito di stoccaggio di scorie nucleari al mondo, è in costruzione a Onkalo, nel nord della Finlandia, e sarà, come dire, terminato tra 25 anni e chiuderà poi i battenti nel prossimo secolo. Il problema che lui esplora con questo documentario è che il business plan di Onkalo è un po' complesso, perché Onkalo deve conservare queste scorie nucleari per 100.000 anni e puoi immaginare, come dire, le complessità di un progetto di questa portata, e anche direi che in alcuni momenti del film ovviamente si ride, perché uno degli elementi straordinari è quando decidono che cosa scrivere fuori dal sito, cioè non aprire, attenzione, qui c'è la morte, e il problema è che non vogliono scriverlo in finlandese, dicono no, beh, ma qualche intelligente dice ma no, scriviamolo in inglese, e qualcun altro dice ma scusami, ma 100.000 anni fa si parlava inglese, e quindi il tema è gigantesco, e questi signori si trovano e lo raccontano nel documentario, che poi è anche molto visionario ed è, come sempre in Michael Madsen, un documentario sull'umanità e sulla percezione di sé dell'umanità. Appunto si trovano a affrontare dei paradossi assurdi, tanto che poi alla fine Onkalo, per legge del governo finlandese, si è deciso che debba essere dimenticato. Sì. Il problema è che è scritto nella legge di dimenticarlo, quindi si ricorderà. Senti Andrea, per quanto riguarda questo tipo di storie, ossia le biografie e la memoria, ci sono dei paesi in cui questi racconti hanno maggiore vivacità, cioè ci sono più materiali prodotti? Ma sì, quest'anno abbiamo voluto focalizzarci in Europa sulla Danimarca, sì, che è presente con la retrospettiva su Michael Madsen, dicevo, Into Eternity, ma anche il suo nuovo film in anteprima, biografia, The Visit, una cronaca affascinantissima e molto visionaria del giorno in cui l'umanità incontrerà gli alieni. e ancora un altro grande regista molto amato da biografilm, Joshua Oppenheimer, vincitore quest'anno alla Mostra del Cinema di Venezia, l'anno scorso, diciamo nella scorsa stagione, con The Look of Silence, di cui verrà la produttrice a ripresentare il caso delle due produzioni di Act of Killing e The Look of Silence. In chiusura, Andrea, diamo i riferimenti internet per la programmazione? Sava Sandir, il riferimento è semplice, biografilm.it. Esiste da domani anche una Biografilm TV che consente di essere in diciamo di avere immagini e come dire, interviste ai protagonisti del festival in tempo reale dalla manifestazione. E poi su Sky ci sono appunto due film del festival su Sky Cinema, il 13 e il 14 di giugno, e come ogni anno in partnership con Sky Art HD una buona selezione dei documentari degli anni passati su Sky HD, Sky Art HD appunto. Andrea, un abbraccio, io ti ringrazio, ci sentiamo per le prossime novità. Ciao. Andrea Romeo, direttore dell'11ª edizione del Biografilm Festival a Bologna dal 5 al 15 giugno. Dopo aver sentito il direttore Andrea Romeo, rimaniamo in tema di biografilm, perché è con noi Andrea Adriatico, che è regista del documentario Torri, Checche e Tortellini, che sarà al Biografilm il 6 giugno, cioè sabato prossimo. Andrea, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, bentrovati. Da un Andrea a un altro Andrea. Da un Andrea a un altro Andrea. Torri, Checche e Tortellini è un titolo che mette subito di buon umore. Di cosa si tratta, Andrea? Spero che lo faccia anche il film, abbia il compito di mantenere questo buon umore nonostante racconti una questione importantissima come la storia di un gruppo di persone che nel lontano 1982 riuscì ad ottenere a Bologna il primo circolo gay italiano pubblico e da lì partire con un'avventura molto importante che fece conoscere il castello di Porta Saragozza in tutta Europa. L'idea del documentario come è partita, Andrea? Sicuramente c'è una questione importante che è, come recita in qualche modo il sottotitolo, provare a fare degli appunti sulla storia dell'omosessualità, che in qualche maniera è una storia non scritta, è una storia che in qualche modo vive di riflesso delle stesse questioni di cui discutiamo oggi politicamente in questo paese, ma anche in altri paesi, e cioè la rimozione dell'idea dell'omosessualità. Oggi si riesce a discutere di qualcosa quantomeno, ma fino a 40 anni fa lo statuto dell'omosessuale per eccellenza era lo statuto di un nascondimento, di un'impossibilità di svelarsi. In qualche maniera quello è stato quello del Cassero nell'82 a Bologna è stata proprio una pietra miliare per cambiare la percezione della libertà, dei diritti civili in questo paese, ed è stato ancora più importante perché si incastra in un momento storico molto preciso che è il 77 bolognese, quindi carro armati in città, un momento di rottura forte tra una sinistra ingessata come poteva essere il PC di quell'epoca e questo movimento giovanile che in qualche maniera proprio a Bologna sfociò azioni rivoluzionarie e dolorose. Oh, Andrea, stavo pensando, rispetto alle battaglie sui diritti, se cominciarono fine anni 60 e per tutti i 70 negli Stati Uniti, in Italia furono proprio gli 80 l'inizio in questo senso, contrassegnati anche dalla tragedia dell'AIDS. Beh, sicuramente questo è un momento storico importantissimo in cui le due questioni sono intimamente interconnesse, ed è purtroppo un qualcosa di cui oggi ci si dimentica in maniera molto, secondo me, molto colpevole. C'è una questione che è la politica dei diritti civili, ma c'è anche una questione che è la politica sanitaria. C'è una popolazione altamente vulnerabile, come la popolazione omosessuale, che ha scampato e vissuto sulla propria pelle, ovviamente non solo loro, ma ha vissuto sulla propria pelle tutta la questione dell'HIV/AIDS, e in qualche maniera i due processi si sono intrecciati inevitabilmente, perché se alla fine degli anni 70 era portata di mano nella società italiana l'idea, il sogno di una sessualità condivisa, più libera, di una visione un po' diversa dello stare insieme, l'AIDS ha dato sicuramente una brutta botta a tutto questo momento, in qualche maniera ci ha ricondotti in una dinamica di sospetto per l'altro che la dice lunga sui leghismi di oggi. Ecco, tornando invece a quel periodo, Andrea, rispetto proprio all'82, quali furono i punti qualificanti, gli elementi qualificanti di quella lotta? Ma guarda, il film ha avuto una prima proiezione al Festival del Cinema Gay a Torino, sì. E in qualche maniera una delle cose che mi sono sentito dire maggiormente è il fatto che è un film che dovrebbe essere visto dagli amministratori, dai sindaci e cose di questo tipo, ed è molto curioso questo fatto, perché uno si aspetta un film movimentista. Io certo non ho paura di essere individuato come un regista che si occupa spesso di tematiche legate all'omosessualità, però in questo caso davvero è emblematico e sintomatico come il racconto di questo film sia in realtà il racconto di un processo politico forte ed importante, di una città che ha avuto il coraggio di andare controcorrente, di proporre un edificio per i gay esattamente nel posto dove c'è una lapide dedicata alla Madonna di San Luca, che è la Madonna protettrice dei bolognesi, e dove Wojtyla nell'82 fece tappa con un famosissimo appuntamento con i fedeli emiliani, proprio pochissimi mesi prima che il circolo venisse dato agli omosessuali. Quindi potete immaginare che cosa sia stata da un punto di vista politico una scelta così coraggiosa come andare controcorrente e entrare in rottura molto forte con quello che era l'establishment cattolico della città. Andrea, come è strutturato il lavoro? Naturalmente inquadra tutto quello che è il momento politico di Bologna, come dicevo prima, quindi sì. Intreccia le tre frequenze che accavallano il 77, la strage alla stazione di Bologna del 1980 e l'arrivo di questa malattia così sconvolgente nell'83 che è la crisi. In questi tre grandi filoni esistenziali e politici che riguardano la città, ma in realtà poi riguardano il nostro paese e non solo, si inserisce questa scelta politica che è quella dell'82 di un sindaco che insieme ad un segretario del PC decidono di appoggiare questo collettivo frocialista bolognese e dargli finalmente un voto pubblico. E da lì parte una storia che dura ancora oggi. Senti, hai condotto interviste, hai filmato, hai utilizzato materiale di repertorio. Ecco, come hai messo insieme tutte le varie... Allora, diciamo che gli anni 70, fine degli anni 70, inizio anni 80, sono ancora gli anni della fotografia. Okay. Non c'è ancora il sovrabbondare di video che arriverà lì a poco, per cui i materiali di repertorio non sono moltissimi. Fortunatamente ci sono ancora dei volti, non tutti purtroppo, ma dei volti ci sono ancora, e quindi in qualche maniera è una collezione carrellata tra amministratori, quindi ex sindaci, ex assessori, i protagonisti che sono comunque la storia chiave di questo momento, e anche qualche giornalista che in quegli anni è stato particolarmente attento a leggere questa mutazione e questo grande orgoglio di questa città che riusciva ad essere controcorrente molto forte. Andrea, dopo il biografilm, che percorso seguirà il tuo documentario? Ma il documentario continuerà a girare in dei festival, ha molte richieste anche all'estero, e poi comincerà a fare un suo percorso di sala. Devo dire che è un documentario molto godibile, quindi che non ha la tentazione di voler raccontare tutto, perché è impossibile raccontare tutto, però offre degli appunti importanti anche a delle persone che non ne sanno nulla per riflettere su questa cosa e provare ad immaginare un'altra politica. Io t'abbraccio, a risentirci presto, Andrea. Io vi ringrazio, te e tutti, per l'attenzione. A presto. A presto, ciao. Andrea Adriatico, regista del documentario Torri, Checche e Tortellini al Biografi Film Festival il prossimo 6 giugno, sabato. Ritroviamo Paolo Nepi per parlare della piattaforma web Movie Day. Ci eravamo sentiti che era un progetto in divenire, adesso è finalmente online. Paolo, ben ritrovato. Ciao, ciao, ben ritrovati. Raccontaci un po' questa avventura. È veramente un'avventura, sì. Siamo finalmente arrivati online, la piattaforma movieday.it online, e abbiamo lanciato i primi eventi. Siamo stati sul report domenica 24 maggio ed è stato un gran successo, perché ci hanno contattato da tutta Italia, tutti interessati, soprattutto le sale, per unirsi al progetto. Allora, partiamo dalle origini. Come ha avuto origine questo progetto e quali erano le sue caratteristiche? Allora, Movie Day è un progetto che è nato diversi anni fa sulla falsa riga di altre piattaforme web di cinema su richiesta americane, e l'idea era appunto quella di creare una gemella in Italia e consentire al pubblico di organizzare proiezioni in sala. E ci siamo messi con Antonello, che è il founder del progetto, a lavorare sodo, e dopo aver vinto un grant di diversi soldi dalla Fondazione Cariplo per un bando per startup innovative, siamo riusciti a mettere in piedi questa piattaforma, che adesso è operativa, funzionante e accessibile a tutti. Raccontaci un po' le modalità per l'accesso a questo strumento. Le modalità sono semplicissime: basta andare su movieday.it, iscriversi, e si ha così accesso a circa 1000 film nel catalogo, film vecchi, nuovi, alcuni anche mai distribuiti, e è possibile, selezionando dei cinema che sono convenzionati, organizzare delle proiezioni. Praticamente si sceglie un giorno, un'ora, una sala, un film, e si crea un evento. Da quel momento parte un countdown entro il quale devono aderire almeno un numero minimo di persone affinché la proiezione venga realizzata. E semplicemente, se si raggiunge il quorum minimo, la proiezione è confermata. Basta acquistare i biglietti sulla piattaforma, e se la proiezione viene confermata, tutti vanno al cinema, altrimenti vengono semplicemente rimborsati tutti i biglietti preacquistati. Quindi molto semplice a livello di funzionalità. Senti, per questo catalogo di 1000 passatitoli, quali sono state le modalità di scelta del materiale? Il materiale è venuto, diciamo, è stato scelto in vario modo. Ci sono state delle distribuzioni che ci hanno immediatamente contattato appena hanno saputo dell'idea, altre che siamo andati noi a contattare, e naturalmente, essendo una vera e propria vetrina per i film, è molto interessante anche da parte dei distributori poter mettere di nuovo in circolo i film che magari hanno avuto delle finestre abbastanza brevi all'interno della programmazione classica. E quindi niente, è stato abbastanza facile avviare i primi contatti con le distribuzioni e inserire i film a catalogo. Noi siamo aperti a tutti i film, non abbiamo fatto una selezione particolare. Di fatto per noi è importante che il pubblico abbia la più ampia e vasta possibilità di scelta nel caso voglia riguardare, rivedere al cinema, in sala, i film che si sono persi oppure i capolavori a cui sono affezionati e che vorrebbero rivedere in sala. Oh, proprio a questo proposito, rispetto agli interessi di questa trasmissione, ci sono due categorie a cui teniamo particolarmente: le opere prime e i documentari. Ecco, sono coperte anche queste due? Assolutamente sì. Allora, il sito internet è navigabile attraverso dei filtri e dei generi, e nei generi naturalmente c'è la sezione documentari. Tra l'altro, i documentari sono alcuni dei titoli più numerosi nell'ambito di indipendenti, e quindi siamo molto felici di averli all'interno del catalogo. Ci sono anche opere prime, naturalmente, alcune distribuite, altre invece non distribuite. Bene. E perlomeno attraverso la piattaforma possono avere la possibilità, diciamo, di essere selezionate in sala. Quindi sì, assolutamente, è un tema che per noi è caldissimo, soprattutto per i registi, diciamo, in erba, che magari non con la prima opera hanno difficoltà e che attraverso questa vetrina possono tentare di promuovere dal basso le loro prime opere. Ecco, proprio a questo proposito dal basso, ho visto che c'è già un calendario di iniziative proposte dai fruitori stessi. Sì, esatto. Sono già stati creati 3 eventi su varie città, perché noi siamo usciti al momento su Milano, Roma, Napoli, poi Paderno, Dugnano e Saronno, che sono nell'Interland di Milano. E a tal proposito ci sono già 3 promoter, appunto, come li chiamiamo noi, cioè coloro che hanno proposto delle proiezioni, evento su Movie Day, e ci sono già 3 promoter che hanno creato questi 3 eventi. Il primo, che sarà il 27 giugno a Milano, sabato 27 giugno, che prevede la proiezione del film Il Buono, il Matto e il Cattivo, che è una specie di revival, citazione un po' a Sergio Leone, stile tarantiniano, un film coreano, ed è promosso da un gruppo di Milano abbastanza famoso chiamato Spazio Petardo, che appunto ha promosso l'evento e poi in contemporanea creerà un post evento, post film. Ci sarà un DJ set alla Fabbrica del Vapore, dove loro appunto continueranno la serata a tema western, diciamo. Quindi hanno creato un vero e proprio evento intorno al film, che è un po' quello che noi speriamo ogni promoter faccia, perché comunque sia, oltre all'esperienza dentro la sala, è bene anche un'esperienza più articolata, insomma. Esatto, condividerla insieme ad altri, sì. Bene. Paolo, io ti ringrazio. I riferimenti li dai tu in chiusura, allora? Sì, ci potete trovare su www.moviday.it o sulla pagina Facebook, sempre Movie Day ci trovate, e niente, venite e partecipate assolutamente a questi eventi, che sono fantastici. E l'acquisto è, appunto, come ho detto, online, e si paga anche meno, perché noi abbiamo messo la possibilità di acquistare online a prezzo ridotto rispetto alla sala, proprio perché c'è bisogno della conferma dell'evento e quindi dell'adesione prima di una certa data. Un abbraccio e alla prossima. Grazie mille, grazie. Ciao, a voi dell'ospitalità. Paolo Nepi per la piattaforma web Movie Day, e con questo chiudiamo l'appuntamento di questa settimana per Visionari, che torna giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15. La scaletta e le informazioni sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook. Per contattarci, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.